come la grazia si occulta. O anima, noi abbiamo protratto a lungo questo discorso. Infatti era un bene per noi stare qui e con Pietro e Giovanni contemplare la gloria dello sposo e rimanere a lungo con lui. Se egli avesse voluto piantare qui non due, non tre, ma una sola tenda nella quale stare insieme e gioire insieme. Ma lo sposo già dice: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. Già hai ricevuto il lume della grazia e la visita che desideravi. Data dunque la benedizione, colpita l'articolazione del femore e mutato il nome di Giacobbe in Israele, lo sposo a lungo desiderato scompare repentinamente, si allontana per un po' di tempo. Egli si sottrae per quanto riguarda la predetta visita e la dolcezza della contemplazione, ma rimane tuttavia presente per quanto riguarda la direzione, la grazia e l'unione con lui.